675. Zuppa inglese. E in Toscana, ove per ragione del clima ed anche perché colà hanno avvezzato così lo stomaco, a tutte le vivande si dà il carattere della leggerezza e l'impronta, dove è possibile, della liquidità. La crema si fa molto sciolta, senza amido né farina, e si usa servirla nelle tazze da caffè. Fatta in questo modo riesce, vero, più delicata, ma non si presta per una zuppa inglese nello stampo e non fa bellezza. Eccovi le dosi della crema pasticcera, così chiamata dai cuochi per distinguerla da quella fatta senza farina. Latte, decilitri 5, zucchero grammi 85, farina, o meglio amido in polvere, grammi 40, rossi d'uovo numero 4, odore di vaniglia. Lavorate prima lo zucchero coi rossi d'uovo, aggiungete la farina e per ultimo il latte a poco per volta. Potete metterla a fuoco ardente girando il mestolo di continuo, ma quando la vedrete fumare coprite la brace con una palettata di cenere o ritirate la cazzaruola sull'angolo del fornello se non volete che si formino bozzoli. Quando si è già ristretta, continuate a tenerla sul fuoco 8 o 10 minuti e poi lasciatela ghiacciare. Prendete una forma scannellata, ungetela bene con burro freddo e cominciate a riempirla nel seguente modo. Se avete una buona conserva di frutta, come sarebbe di albicocche, di pesche o anche di cotogne, gettate questa per la prima in fondo alla forma e poi uno strato di crema ed uno di savoiardi intinti in un rosolio bianco. Se, per esempio, le scannellature della forma fossero 18, intingete 9 savoiardi nell'alchermes e 9 nel rosolio bianco e coi medesimi riempite i vuoti alternandoli. Versate dell'altra crema e sovrapponete alla medesima degli altri savoiardi intinti nel rosolio e ripetete l'operazione fino a riempirne lo stampo. I savoiardi, badate di non inzupparli troppo nel rosolio, perché lo rigetterebbero. Se il liquore fosse troppo dolce, correggetelo col rum o col cognac. Se il tempo avesse indurita la conserva di frutta, della quale in questo dolce si può fare anche a meno, rammorbiditela al fuoco con qualche cucchiaiata di acqua, ma nello stampo versate la ghiaccia. Questa dose può bastare per 7 o 8 persone. Nell'estate potete tenerla nel ghiaccio e per sformarla immergete per un momento lo stampo nell'acqua calda onde il burro si sciolga. Saranno sufficienti grammi 120 a 130 di savoiardi.